Sezione quattordicesima della Divina Commedia, Il Paradiso, di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto quattordicesimo. Dal centro al cerchio, e sì dal cerchio al centro, muovesi l'acqua in un ritondo vaso, secondo che percossa fuori o dentro. Nella mia mente fe subito caso questo ch'io dico, sì come si tacque la gloriosa vita di Tommaso, per la similitudine che nacque del suo parlare e di quel di Beatrice, a cui sì cominciar dopo lui piacque. A costui fa mestieri e non vi dice, né con la voce né pensando ancora d'un altro vero andare alla radice. Diteli se la luce onde si infiora vostra sostanzia rimarrà con voi eternalmente sì come ella è ora, e se rimane dite come, poi che sarete visibili difatti, esser potrà che al veder non vi noi. Come da più letizia pinti e tratti alcuna fiata, quei che vanno a ruota, levan la voce e rallegrano gli atti, così, all'orazion pronta e devota, li santi cerchi mostrar nuova gioia nel tornear e nella mira nota. Qual si lamenta perché qui si muoia per viver collassù, non vide quivi lo refrigerio dell'eterna ploia. Quell'uno e due e tre che sempre vive e regna sempre in tre e due ed uno, non circoscritto e tutto circoscrive, tre volte era cantato da ciascuno di quegli spirti con tal melodia ch'ad ogni merto saria giusto muno. Ed io udii nella luce più dia del minor cerchio una voce modesta, forse qual fu dell'angelo a Maria, risponde: quanto fia lunga la festa di Paradiso, tanto il nostro amore si reggerà d'intorno cotal vesta. La sua chiarezza seguita l'ardore, l'ardor la visione, e quella è tanta quanta ha di grazia sovra suo valore. Come la carne gloriosa e santa fia rivestita, la nostra persona più grata fia per esser tutta quanta, perché s'accrescerà ciò che ne dona di gratuito lume il sommo bene, lume che a lui vederne condiziona, onde la vision crescer conviene, crescer l'ardor che di quella s'accende, crescer lo raggio che da esso viene. Ma sì, come carbon che fiamma rende, e per vivo candor quella soverchia, sì, che la sua parvenza si difende, così questo fulgor che già ne cerchia fia vinto in apparenza dalla carne che tutto dì la terra ricoperchia. Ne potrà tanta luce affaticarne che gli organi del corpo saran forti a tutto ciò che potrà dilettarne. Tanto mi parver subiti ed accorti e l'uno e l'altro coro a dicer amme che ben mostrar disio de corpi morti, forse non pur per lor, ma per le mamme, per li padri e per gli altri che fur cari, anzi che fosser sempiterne fiamme. Ed ecco, intorno di chiarezza pari, nascere un lustro sopra quel che vera, a guisa d'orizzonte che rischiari. E sì, come al salir di prima sera comincian per lo ciel nuove parvenze, sì che la cosa pare e non par vera, parvemi lì novelle sussistenze cominciare a vedere a fare un giro di fuor dall'altre due circonferenze. O vero sfavillar del santo spiro, come si fece subito e candente agli occhi miei, che vinti non soffriro. Ma Beatrice sì bella e ridente mi si mostrò che tra l'altre vedute si vuol lasciar che non seguir la mente. Quindi ripresa gli occhi miei virtute a rilevarsi, e vidimi traslato sol con mia donna a più alta salute. Ben m'accorsio chi era più levato per l'affocato riso della stella che mi parea più roggio che l'usato, con tutto il cuore e con quella favella che è una in tutti, a Dio fece l'olocausto, qual conveniasi alla grazia novella, e non era anco del mio petto esausto l'ardor del sacrificio, ch'io conobbi e solitare stato accette Fausto, che con tanto lucore e tanto robbi m'apparvero splendor dentro a due raggi, ch'io dissi, o Elios, che si gli addobbi. Come distinta da minori e maggi lumi biancheggia tra i poli del mondo galassia, sì che fa dubbiar ben saggi? Sì, costellati facean nel profondo Marte quei raggi il venerabil segno che fan giunture di quadranti in tondo. Qui vince la memoria mia l'ongegno, che in quella croce lampeggiava Cristo, sì ch'io non so trovare esemplo degno. Ma chi prende sua croce e segue Cristo, ancor mi scuserà di quel ch'io lasso, veggendo in quello albor balenar Cristo. Di corno in corno, e tra la cima e il basso, si movean lumi scintillando forte nel congiungersi insieme e nel trapasso. Così si veggion qui, diritte e torte, veloci e tarde, rinnovando vista, le minuzie de corpi lunghi e corte muoversi per lo raggio onde si lista, talvolta l'ombra che per sua difesa la gente con ingegno ed arte acquista. E come giga ed arpa in tempra tesa di molte corde fan dolce tintinno a tal da cui la nota non è intesa, così da lumi che lì m'apparinno s'accogliea per la croce una melode che mi rapiva senza intender l'inno. Ben m'accorsio che l'era d'alte lode, perocché a me venia risurgi e vinci, come a colui che non intende e ode. Io m'innamorava tanto quinci che fino a lì non fu alcuna cosa che mi legasse con si dolci vinci. Forse la mia parola par troppo osa, posponendo il piacer degli occhi belli, nei quai mirando mio disio apposa. Ma chi s'avvede che i vivi suggelli d'ogni bellezza più fanno più suso, e ch'io non m'era più rivolto a quelli. E scusar puommi di quel ch'io m'accuso per iscusarmi e vedermi dir vero, che il piacer santo non è qui dischiuso, perché si fa montando più sincero. Fine del canto 14.